Ed ora, signore e signori, volume a palla per la fantasia musicale curata dalla C2 Band con la partecipazione canora di Franco Di Palma e Massimo Cozzolino. Buon divertimento! E mo ci può mai essere. Sono invitato a sbattere in mano, cantando sta canzone a ca. Mo guardando le facce, madonna, la stima su un anno, a loro ci che ci sta. Mi sa un muglio che so, che si rasa va chi, so po' poi ma ste ben, ma non insuperabile. Con 25 color rosso blu, tanto so pure l'anno, ca comando tu. Le premie di gare c'è coppa che mi ha si torna a vincere qua. Coppi, coppi, siamo noi il mondo, c'è tutto il mondo, superoppi noi. Si ha dimandato un vecchio barrese di sponare a guardare. Ci ha fatta storia di cicchi da par, siete mamme, sono sotto tre. Ma nei birri di ciotto schiavone, ho già mi fatto l'ora, a nove me non manà. Oh, ma t'anna così, oggi si insuperà, ho più difficile a te, senza dubbio ti affascina. E l'umità non c'è spagna se ne ha, tu sei pure di cervella che pena a guardare. Qualche cugina stai scendendo a di vostra lodà divina mandire da Franco. Stiva amore Nicole, ora sta storia mia l'immaginava ancora per me cominciare. Ma non potesse tenere niente, si potesse tornare che c'è nata volta. Non avrezza così facile sta vita che non da fa respirare. Però mi campana per tutti strade in Napoli, cosa da faccia per l'indivicola, senza ma guarda attorno, senza ma sta corto quanti guardi passano. Libero, ascesso con moglie e mano me che naga, e sapere a partita insieme alla figlia ma. Cosa che senta semplice può fare. Libero, senza paura, senza mannaggia con me. Ma non passi giornate senza vivere. Ma non muori così senza campare. Galizia, sara sada che la delizia. Ai, chiamo Mirga, ai, ai, chiamo Mirga. E continuiamo a girare, diamo il benvenuto, la storia, Franco Di Bomba. Madre Lucia, sai sânge la tine și era la tia. Rame în sudul minut, dar cu zi, cum mele vrit, măgat și ura vă vânte. Sudul nu pocă, mă tănesă cu me. Te-a văzut ancora pena madre Lucia. E chid nu fie madre Lucia. La ce vârtul se gânsa să ame. Signori, andiamo tutti in viaggio, Palermo, Milano. Ehi, è quando d'agosto sta a mostrare. Perché noi veniamo dalla bassa. Yeah. forse più care. Nella valigia me ne vado da te a cercare gli orizzonti lontani, quell'avventura che aspettavano me, dove i colori sono più veri, dove il mattino è un nuovo giorno per me, per risvegliare tutti i miei desideri di lasciarmi con te. Tu sta deri, grandissima novità. ladeira, não tem nem lá culpa. Lá na cena de bada, de que nem percebidado. Bebê, bebê, bebê, bebê. Massimo,

avuto l'onore di ascoltarvi in questo medley. Spero che in seguito la C2 diventa C3, no, a Citroen. Castagnini, Caccavole, Cozzolino. Fammo favore, zombato ciglie, tu che sti spalla arriva in cielo, voglio in te braccia di stare in te. Yoga carambolo Felice Massimo, pigliamoci sto piccerino e benzo. E mo voglio sentire cantare tutti i seguaci di Insuperabile. Calzola 2012 Show si chiude qui. Noi ringraziamo tutti per il gentile ascolto e a Otilia diamo tutti appuntamento al Giugno Nolano. Al Giugno Nolano, dove ritornerà lo show, questa volta live. Buon divertimento e soprattutto buona festa!